pizzeriana. Ciao, grazie. Ciao, ti tirano di subito di uno, sì, di due, sì. Sì, c'è la giornata. Aspetta, metta una a vedere. Così meglio, Così già va bene. Sto spazzolando, beh, tu credi che non c'è un cane? Sì, presto, per quello che non c'è nessuno. Acceso ce l'hai di là? No, te lo sento, perché? È per vedere se mi sentivi, erano. Aspetta col portatile, ce l'ho qua a portata di mano. E accendilo. Grazie Giulio. Sono qua, sono Marco, sono qua. Non sono Marco, sono Claudio. Ho detto cosa c'è. Non c'è niente. No, sto scendendo adesso per la partita. Stavo parlando con Graziano sul PMR. Ma mi ha chiamato Marco e appunto stavo sentendo che cosa voleva, perché io avevo già salutato Graziano per andare giù a vedere la partita. Sì, io ti sento. Ah, PMR, perché ti ho sentito chiamare nell'PD? Ma chi? Io ti stavo chiamando, ma e poi tu non parla, sono ripassato sul 031, perché non mi hai risposto. Siete tornati in PMR o siete nell'EPD? Il canale nostro dell'EPD, chi è che mi ha chiamato a me? Quando mi hai chiamato? Adesso? Non arrivi, non ti sento io. Non arrivi Marco, non arrivi neanche nell'EPD da lì. Santiago 7. Tu non stai chiamando in LPD, stai chiamando in PMR, io non ti sento nell'EPD. Ho rincoglionito, non è bere di vino. Stai chiamando in PMR, non in LPD, ti ho detto. Ma dov'è che stai chiamando? A Giulio lo senti? E Giulio ce l'hai lì davanti a te, è davanti a te. Sai cosa vuol dire che è davanti a te? È a 50 metri da dove sei tu, Giulio. Qui non arrivi. E io sono il 27, da poc'anzi. Se ti ho risposto, se ho messo modulate 7 e mezzo, la radio è buona. Sì, arrivi, hai la voglia, ce n'è l'abbondanza. Il radio ce n'è l'abbondanza, va benissimo. Sì, arrivi. No, ma poc'anzi tu hai chiamato in PMR, non in LPD. E quello è il problema, perché io ti ho ascoltato, quando tu hai chiamato, ti ho sentito in PMR e avevi sbagliato la frequenza. Per forza Claudio non ti sentiva. Io ti ho sentito benissimo, in LPD ti ho sentito benissimo qua. Come in PMR, non lo so perché c'era Graziano che stava parlando, no? Certo. A voi che arrivi qua, arrivi, e come? Sì, adesso io vi saluto e scendo, dai. Ci sentiamo, dai, che vado per la partita, sono già le 6, meno 8 minuti, per cui siamo già vicino al collegamento. Dopo ci sentiamo, dai. Ciao qua, ciao Marco, alla prossima, dai, io vado per la partita, mi prendi qua. Ehi, va bene, dai, ci sentiamo. Sicuramente non ci sentiamo, perché io poi dopo la partita devo uscire, se no c'era fuori. Comunque in PMR io non ti ho sentito e non arrivi da me, perché non arrivi. In LPD non arrivi lo stesso, Marco. Ciao Marco. Ciao a tutti, Giuseppe, metti anche le scarpe domani. Noi tieni il telefono acceso, noi verso le 9 saremo, 9:15, 9:15, insomma saremo ad Alghero, ok? Ciao Vale, tieni il telefonino acceso, ok? Dai che c'è la partita, vi sto ascoltando ma non posso riprendere, ciao Vale, finalmente ti sento come Cristiano, ciao. Ehi, K, dai, se vuoi vediamoci per un caffè domani, non so, io sono Alghero prima mattinata, poi devo, facciamo il lavoro a Giuseppe, poi devo scappare che c'ho gente a pranzo, quindi devo essere in tempo a Sassi. Dai, ci sentiamo dopo se coincide, ma non credo comunque. Mi tenetevi salutati. Giuseppe, il telefono acceso per favore, perché la lampadina non ce l'avevi spento, tienilo acceso, ciao, ciao Valì. E vabbè, sia che ti chiamo, capito? Lascia il telefono acceso. Vabbè, già me lo faccio io il posto, vai, vado a vedere la partita, ciao a tutte e due, a domani, ciao. E già ti ho capito Giuseppe, minchia bellissimo quello strumento, Giuseppe, illuminato, ce l'ho anche io. Anche il soffio si sente, si, ti fa vedere anche il soffio del, delle cose, bellissimo, dai, ho incrociato. Quello è veramente uno strumento, P&P proprio ti dà il picco di modulazione, bellissimo. È un 3 kW, è il CN3. Va bene, va bene. Ok, dai, ci sentiamo dopo, se coincide, se no domani. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Valerio, Valerio, attenzione Valerio, attenzione Valerio. Ciao Valerio, e a tutti, e il capo, tanto la sua, schiaffa, e il capo, dai, fai tra l'intanto che lo fa buttare, dai, perché anche io sono un bel QRM, addirittura Giuseppe non lo ascolto per niente, non lo ascolto, e ascolto solo a te, va bene, dai, buon proseguo Valerio, buon proseguo in locale, ciao Valerio, ciao, e il capo, dai, sentiamo, ciao Giuseppe, ciao, saluta Giuseppe. È questa la Juve che voglio, Claudio, è questa la Juve che voglio, sì, avanti, ha vinto 2-0, è questa la Juve che voglio, è Valerio, non lo so, io non l'ho sentito perché stavo attento alla partita, attento Valerio, ci sei? Valerio, Marco ti sta chiamando. Marco ti sta chiamando. Marco. Hai sentito Valerio? Si trova a Bancali, sta rientrando. È in macchina lui, capisci? È in macchina per quel motivo lì che non lo ascolti. Vabbè dai, Valerio, ti saluto, io vado a fare la cena. Ciao Valerio, a domani, ciao. Marco, ti saluto, ciao. Claudio, si sei d'ascolto, la Juve sta tornando. Ok, ciao Marco, ciao, domani. こちらは NHK ワールドラジオに。